fanciulle, questa Girls, Girls, Girls, grazie ai Motley Crue, grazie a loro iniziamo il nostro appuntamento per questa giornata. Oggi siamo nel martedì 13 di maggio, benvenuti su Rock FM. Mi scuso se ieri mattina non ero presente, ma ho scritto appunto sul blog di rockfamily.it cosa mi è successo. Riassumo velocemente: mi alzo alle 5.30 e alle 6 esco di casa e vedo, scendendo nel box, acqua che cola da soffitti vari di atri del palazzo, della casa. Ma cosa sarà successo? Entro nel mio box completamente allagato, vado a vedere quale caldaia ha creato questo problema tra quelle presenti nel palazzo. Era la mia, con acqua che fuoriusciva da valvole eccetera eccetera, pressione al massimo. Bene, detto questo, è stata la mia giornata, quella di ieri, tra asciugare, pulire, chiamare tecnici delle caldaie e naturalmente spendere un bel po' di soldini per doverla cambiare, perché ormai era andata KO. Va bene, detto questo, entro in contatto con voi in questa giornata insieme per le nostre 3 ore sino alle ore 12. Ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto e lo saranno magari nelle prossime mezz'ore. Come sempre avremo, oggi ne abbiamo tanti e tanti compleanni, tanti nati in questa giornata del 13 di maggio, e subito spazio alla musica con un quartetto, Crosby, Stills, Nash & Young e la loro Marrakesh Express. To get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they led. Listen not to what they said to you. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my gold cups hanging in the air. Charming cobras in the square. Stretch your levers, we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. Atmosfera quasi countryante con Marrakesh Express per Crosby, Stills, Nash & Young. Al nostro primo trisassi di quest'oggi, aperto dai Romantics, What I Like About You. Troveremo poi Since I've Been Loving You per naturalmente i Led Zeppelin, e a chiudere il tutto Rod Stewart, The First Cut is the Deepest. Yeah.

have given you all of my heart. But there's someone who's torn it apart, and she's taken just all that I had. But if you want, I'll try to love again. Di Rod Stewart, ospitato nel nostro primo Trisdas di quest'oggi. La prossima band verrà a settembre, se mai l'avete vista dal vivo, segnatevi questo appuntamento, un festival con i Gotthard, gli Extreme, altre band che si aggiungeranno, e poi loro, Twisted Sister, I Wanna Rock. Play for all I- questo è vero e proprio inno I Wanna Rock, Twisted Sister, al primo compleanno di questa giornata. Vi avevo anticipato che sono molti compleanni per quest'oggi, 13 di maggio, il primo ci porta all'annata 1945. Io non so se questo è il suo vero nome, chiamarsi o farsi chiamare Magic Dick, traducete un po' voi, mi sa molto di soprannome. Componente di un gruppo che miscelava sonorità rock and roll al blues, J-Gaz Band, il nome della formazione, Magic Dick, il componente, 13 maggio 1945. E questi sono loro. Grandissimo successo a livello di vendita di programmazioni nelle radio americane, questa canzone della J-Gaz Band per il primo compleanno di quest'oggi, Mr. Magic Dick, 13 maggio 1945. Andiamo al prossimo, 1949, Peter Waltz, componente di questa band inglese chiamata Motley Upolla. Don't wanna stay alive when you're 25. And when the ceiling glows with thousand sparks and Freddy's city, San with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, again, I'm a dude now. A young dude. Hey, dude. Carrying a noose. Where are you? Dude, dude. Stop, stop. Carrying a noose. Oh, the young dude. I want to hear you. Carrying a noose. I want to see you. Dude, dude. I want to talk to you. All of you. Now, he looks sick, cause he dresses like a queen, but he can kick like a mule. It's a real mean team that we can love. Oh, yes. We can love.